Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa, dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. If Jah is for my people, I don't know who can try, who can try to be. Nuovamente in voce dopo un bel po' di assenza, e allora ricominciamo per questo 21 di maggio. E vi ricordo, oltre alla frequenza, il contatto telefonico 06 49 17 50 e poi i numeri, quei numeri magici, quelli importanti per questa radio, il conto corrente postale, il 61 80 40 01, su cui fare dei versamenti per sostenere Radio Onda Rossa, che si avvia al suo 39esimo compleanno il 24 di maggio. Il conto corrente postale, abbiamo detto, 61 80 40 01, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via De Voci 56, Roma. If Jah is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa wants to be free. Africa, Africa, Africa wants to be free. Mama Africa, Africa wants to be free. Oh Africa, Africa, Africa want to be free. Mama Africa. Per sostenere Radio Onda Rossa potete comunque passare qui a lasciare un vostro contributo nei nostri studi di Le Voci 56. E partecipare alle iniziative di sostegno alla radio qui a Roma. E poi sul sito ci sono tutte le possibilità per fare dei versamenti attraverso tanti sistemi, dal PayPal al bonifico bancario, per sostenere Radio Onda Rossa. Mama Africa is not free. Radio Africa vi tiene compagnia fino alle 18.30, poi ci sarà Soul Peanuts. Africa, Africa, Africa want to be free. Mama Africa, Africa want to be free. Oh Africa, Africa, Africa want to be free. E poi ci sarà Disaccordo e poi la trasmissione a cura del Fronte di Liberazione del Popolo Cingalese. E allora cominciamo con le nostre selezioni e cominciamo con un omaggio a un grande musicista africano che è morto il 24 aprile scorso mentre faceva un concerto ad Abidjan. Lui è Papa Wemba, che è un musicista che ha creato un vero e proprio stile, uno stile musicale ma anche uno stile di vita. Lui è stato quello che ha creato i Saper, la società d'ambianceur, gente che, nonostante la miseria, le difficoltà che viveva la gioventù in Congo, comunque sia durante il periodo di Mobutu, si vestiva in maniera elegante. Era un modo, diciamo così, anche per dire no a quello che sembrava un destino di miseria. Papa Wemba è stato un musicista che ha sicuramente rivoluzionato la scena musicale congolese. Lui aveva cominciato con un gruppo musicale, gli Zaiko Langa Langa, nei primi anni 70, era stato scoperto poi dalla Real World. Allora lui, durante alle 5 del mattino, in una fosissima alba ivoriana, purtroppo è morto di infarto mentre suonava. Lo vogliamo ricordare, Nze, come si dice, che vuol dire il il padre, l'anziano, il saggio. Questo brano è Oko Ningana e lui Papa Wemba. Soto Uta Braza, Luanda, au South Africa, Abidjaya, Undeli, Brazil, Paris, ou même Jamena. Si koyo kanati keli iyo papa. Onina nangayo, tika kosalanga bongo. Kofi nanga ezali mabe. Keba kotanga ezali kolo, okolo baloba mingi he. Nana sali ya nini ye. Ata ofi nginga. Papa Wemba, Papa Wemba, un grande musicista, un grande inventore, inventore anche di mode, ma non solamente di mode, il suo un sapere, un grande sapere. Questo termine, insomma, indica tante cose, indica anche un modo di vita, un modo di presentarsi che poi è stato veicolato anche da tantissimi ragazzi e ragazze africane della diaspora in Europa. 16:42, questa è Radio Africa, cambiamo completamente orizzonte, cambiamo genere, andiamo nel Mali, la splendida voce di Fatoumata Diawara. So why I so why so why so why I so why so why Mama dara zuru lahi kone bena kumasa Nebe sara la muzo ula hadunu nya muzo ula kula mogelema Ibe kono ta segena kide molo segena kika no la mo abada. Kataga la mola ibo di la mola kika no to no dum abada. Sa ah ah ah ah yi. So wa so wa wa so wa. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mwa korodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni wolo teni bibolo Ikana di katala mwola Nide muzo mani bibolo Ikana di katala mwola Denje mani bibolo Ikana di katala mwola O venani dozo kasiye, o venani sonja e sa ah ah ah ah I so wa so wa wa so wa. Fatumata Diawara, una musicista che nasce in Costa d'Avorio ma che ma poi vive in Mali, l'abbiamo ammirata a Roma più di una volta, lei ha suonato con artisti come D.D. Bridgewater, Damon Albarn, ha partecipato al progetto Afro Cubism, Herbie Hancock e l'orchestra Poliritmo di Cotonou e ha anche suonato, ha partecipato anche a un film Timbuktu, una bellissima scena di questo film in cui si vede appunto lei che suona, che canta in un villaggio che era stato occupato dai jihadisti. Rimaniamo in Mali, rimaniamo con un'altra musicista donna, lei Oumou Sangaré, una grande battagliera per i diritti delle donne in quel paese, dove c'è una cultura ancora molto restrittiva, molto retrograda rispetto alla possibilità per le donne di emanciparsi. Lei in questo brano che si chiama Yalla. Thank you. français de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Rokia Traoré dal suo ultimo album Ne So, è proprio questo brano, si chiamava Ne So, un brano che racconta delle persone che sono costrette a fuggire dalla guerra, dalla fame, e lei che racconta del suo Mali ma anche della sua Africa, musicista che è stata scoperta giovanissima, ma che ormai si è affermata, una voce potente, spesso viene a suonare qui a Roma, l'abbiamo vista più di una volta. 16:54, questa è Radio Africa e voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, anche quelli che stanno in fila sulla Via del Mare, come ci dice un ascoltatore. E allora andiamo ancora avanti con le nostre selezioni e rimaniamo in Mali, dove incontriamo un virtuoso di uno strumento che si chiama il Kamalengoni. Lui è Basekou Kouyaté, dal suo ultimo album Ba Power. Ci ascoltiamo questo Musofanga dedicato alle donne africane. Yeah. Baseku, Baseku, Kuyate, So in Gonin Ba, in questo brano che si intitola Musofanga, potere delle donne, dedicato appunto a tutte le donne. Lui è un musicista che si sta affermando, suona questo piccolo strumento che è una sorta di chitarrina a tre corde che si chiama Ngoni, e lo suona in maniera veramente veramente eccezionale. Sono le 17, voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto 06 49 17 50, e questa è Radio Africa. E allora andiamo in Guinea. Loro si chiamano i Bassi Soko, sono due cora, un basso.